GR Europa. L'udienza della Corte Costituzionale tedesca sulla legittimità dello scudo antispread della Banca Centrale Europea non è un caso di due banche centrali che si sfidano attraverso i giudici, così ha detto poco fa il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann. La Bundesbank testimonierà attraverso due funzionari e l'appuntamento appare come un braccio di ferro tra la BCE e i suoi avversari tedeschi, capitanati proprio dalla Buba. I depositi come ultima risorsa da utilizzare per salvare gli istituti di credito in crisi. La Commissione economica del Parlamento europeo vota alcune modifiche alla proposta della Commissione sulla direttiva e sulla risoluzione della crisi delle banche. Il testo ribadisce l'intoccabilità dei depositi sotto i 100.000 euro. Sentiamo Giovanni Lavia, capo della delegazione italiana del PDL a Bruxelles e in Commissione bilancio. Sicuramente questa proposta di direttiva sugli strumenti di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie è un passo avanti e non da poco, visto che costituisce da un lato un meccanismo unico di supervisione con un controllore unico sul piano europeo, dà ovviamente garanzia dei depositi e costituisce anche un quadro integrato di gestione delle crisi bancarie. È chiaro quindi che in questo contesto abbiamo fatto con questo strumento e faremo quando lo voteremo in plenaria un passo avanti non da poco per la garanzia e tutela dei risparmiatori da un lato, ma anche perché attraverso questo sistema di supervisione ci possa essere un attento controllo dal piano europeo sull'attività delle banche. L'organismo di supervisione entrerebbe in gioco nel momento in cui c'è un sistema che rischia di andare in default, interverrebbe in gioco e metterebbe in campo degli strumenti idonei per evitare che ci sia un default delle banche. L'Europa è preoccupata per le conseguenze possibili sulla vita privata dei cittadini e cercherà di ottenere più informazioni possibile dagli Stati Uniti. Così la portavoce della commissaria UE alla giustizia Viviane Reding dopo lo scandalo del Datagate, ricordando però che la sicurezza nazionale è di competenza degli Stati membri. Le autorità della Serbia sono impegnate in un continuo monitoraggio del livello del Danubio che cresce, il cui picco di piena proveniente dall'Europa centro-orientale è previsto raggiunga appunto la Serbia mercoledì. Il grande fiume arriva dall'Ungheria, tocca la Serbia prima Novi Sad, poi la capitale Belgrado, prosegue verso la Romania dove segna buona parte del confine con la Bulgaria e sfocia poi nel Mar Nero. Bene, con questo è tutto per GR Europa. L'appuntamento torna domani poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento Europeo. Info su radio24.it.